E allora vi state divertendo? Dai, un po' su, dai, su ragazzi, su. Noi siamo Sistema Liquido, veniamo da Gattinara in provincia di Vercelli. E questo è Anonimo. Ferma tutto, sarà perché vivo da noi.